L'Iran si trova ad affrontare una minaccia esistenziale. Siamo abituati a scindere l'Iran dalla Repubblica Islamica, però in realtà ci accorgiamo sempre di più in queste ore che sono la stessa cosa. Cioè, i militari iraniani, in particolare Pasdaran, ma al di là degli Ayatollah, ma in particolare l'ala militare, delle forze armate, vede questi attacchi come attacchi che possono far scomparire lo Stato iraniano per come lo conosciamo. E quindi per questo, rispetto alla guerra dei 12 giorni dello scorso giugno, stanno portando avanti una strategia completamente diversa. Temono tantissimo il collasso dello Stato e ci sono vari esempi da questo punto di vista, per esempio quello che sta succedendo nel Kurdistan, che viene costantemente attaccato. La Turchia potrebbe avere delle mire, per esempio, sul Kurdistan iraniano, potrebbe quindi essere una regione autonoma. Poi in generale la strategia di Israele è sempre stata quella di smembrare gli stati che sono attorno, pensiamo alla Siria. Il Kurdistan è la stessa cosa, è la regione dove c'è la minoranza araba, che ha già dichiarato che vuole autonomia. Ci sono i mujahideen Khalsi, che vogliono formare un governo parallelo a Teheran, che sono un gruppo terroristico, secondo. Quindi di fronte a questo tipo di attacco allo Stato che può sgretolarsi, collassare, la strategia di Pasdaran è stata quella di attacchi costanti alle basi statunitensi nel Golfo, quindi gli attacchi che ci sono stati a Dubai, in Kuwait, in Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Giordania, in tutti i paesi vicini, evidentemente dimostrano che il tentativo è quello di portare, di spingere i paesi arabi ad entrare in questo conflitto, appunto un conflitto esistenziale, non solo. Pensiamo alla chiusura dello stretto di Hormuz, quanto sta facendo crescere il prezzo del petrolio, perché mette in discussione il commercio petrolifero mondiale. Quindi il tentativo è di, da una parte, coinvolgere il più possibile i paesi arabi vicini, dall'altra di attivare tutte le milizie sciite. Allora abbiamo visto gli attacchi, per esempio, del movimento sciita libanese Hezbollah dal Libano, dal sud del Libano al nord di Israele. Haifa è stata colpita e poi ci sono ora attacchi in corso, si parla di decine di morti. Siamo tornati nello scenario della guerra contro il Libano dopo il 7 ottobre del 2023, ma non solo in Libano, pensiamo alle reti sciite in Siria, alle reti sciite in Iraq. Gli attacchi alle basi americane in Iraq sono stati quelli più violenti, che hanno provocato la morte di soldati americani, che poi a sua volta ha provocato una reazione più dura da parte di Trump rispetto al passato, nel senso che si trova ora messo alle strette, messo in un angolo per questa questione dei soldati statunitensi. Non solo, pensiamo ai due paesi più importanti, l'Arabia Saudita e la Turchia, che da una parte hanno fatto dichiarazioni, soprattutto Erdogan, di cordoglio per la morte di Khamenei, l'uccisione di Khamenei nei bombardamenti israeliani e statunitensi, ma dall'altra in realtà potrebbero avvantaggiarsi tantissimo da questa situazione. Molti parlano di doppio giochismo, soprattutto da parte di Bin Salman in Arabia Saudita. E poi la questione ancora più grande che c'è in questo momento è quanto, fino a che punto può essere coinvolta anche l'Europa o altri paesi africani, insomma l'Egitto ed altri della regione. Ma in particolare concentriamoci sull'Europa, con questi attacchi che sono stati confermati a Cipro, che evidentemente potrebbe portare alcuni paesi dell'Unione Europea a voler partecipare a questa guerra. Ma in realtà questo sta già succedendo, perché la Gran Bretagna ha detto che concede le sue basi agli attacchi difensivi degli Stati Uniti e di Israele, quindi è evidente che c'è un sostegno esterno da parte della Gran Bretagna, ma lo stesso atteggiamento potrebbe venire da parte della Francia, colpite alcune delle sue basi. Quindi c'è il tentativo iraniano di trascinare più paesi possibili nel conflitto e di rendere sempre più complesso questo conflitto, per estendere il più possibile, per logorare il più possibile gli Stati Uniti e trasformare fondamentalmente questa guerra in una guerra simile alla guerra in Iraq. E già ci sono degli avvisagli che vanno in questa direzione, perché per esempio Trump ha iniziato a discorrere, a parlare di questa guerra come faceva Bush al tempo della guerra in Iraq del 2003. Bush diceva durerà poche settimane, poi sappiamo che è durata mesi, anni, e non solo per un decennio l'Iraq è stato dilaniato, distrutto da scontri interni, da settarismo, eccetera, ancora adesso fatica a stabilizzarsi. E quindi la stessa cosa sta facendo Trump. Inizialmente ha detto una guerra di 4 giorni, poi una guerra di 4 settimane, poi andrà avanti così. È evidente che gli Stati Uniti devono capire bene che gli interessi statunitensi, soprattutto di un'elite politica repubblicana che non vede di buon occhio lungo un coinvolgimento logorante in conflitti, la morte di soldati americani, l'invio di truppe di terra, appiattisce sulle posizioni di Israele, perché gli interessi statunitensi di Israele non dovrebbero convergere. Invece contratto, sembra che tutto quello che vuole Israele lo voglia anche Washington. Torno un attimo sull'Europa che hai citato. Dobbiamo leggere anche in questa chiave il fatto che la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, non ha commentato, come dire, il conflitto, l'attacco statunitense e israeliano, ma ha nel suo commento condannato la reazione iraniana. È scandaloso questo commento di von der Leyen, perché evidentemente non tiene in conto in nessun modo il fatto che l'Iran sia un paese aggredito, che questa sia una guerra guerra illegale, non c'è stata nessuna approvazione da parte delle Nazioni Unite di un attacco del genere, che è contro il diritto internazionale, quindi è un doppio standard continuo. Ma l'Unione Europea già in passato ha assunto questi atteggiamenti univoci che poco corrispondono alla realtà sul campo. Poi è evidente che la risposta iraniana, in un contesto in cui è stato messo così tanto sotto pressione il paese, ha colpito anche obiettivi civili, e questa è una cosa sempre da condannare, ma ricordiamo anche gli obiettivi civili colpiti da Israele e gli Stati Uniti, per esempio questa scuola dove sono morti almeno 150 persone, tra cui soprattutto piccole studentesse e bambine. Quindi è evidente che la violazione del diritto internazionale è principalmente una parte di chi ha innescato questo conflitto, quando non c'erano necessariamente le condizioni per farlo, per avviarlo, perché per esempio non c'era una minaccia diretta in quel momento da parte dell'Iran. Poi più in generale quello che è necessario sottolineare è che la figura di Khamenei, certo, da chi sostiene i movimenti in Iran, è la figura di un dittatore, però dall'altra parte è anche, e questo si vede anche dalla reazione di una gran parte degli iraniani, che ora è a lutto, che è scesa in piazza per ricordarlo, un leader carismatico che è stato uno dei leader fondamentali dell'asse della resistenza. E i due piani, quello della guerra a Gaza, quello della guerra in Iran, di Israele e Stati Uniti, non possono essere scissi, e lo si vede bene dal Libano, da quello che sta succedendo in Libano, dal fatto che adesso Israele vuole addirittura inviare truppe di terra e vuole di nuovo invadere il Libano. Quindi è evidente che chi è a favore di Gaza, della causa di Gaza, della strage di Gaza, deve essere anche contrario alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.